kara guitarra solo. Engi na yo mateke a losto. Kwa rengi kwa no yo kwa nasunolo. Osa mati lolo, ma itacharanga no mapaka o. No kwa tatak chimets en, chaka no manaf kwa chi apolo. No mila makati, no atokulo komoti. Ela loza zeni koti, nyanyano lokomoti. No mila makati, no atokulo komoti. Asa wanga no na watiti, no atokulo komoti. Yeah, yeah, yeah. Deso, te ma quinza pilot di un ovesso. Squalo Babylon zamalasso. Deso, deso, j'suis ton king no pilot des avesso. Alla lo kilot la palazzo. Sumi na wo, ma me fa caratate. Anno kuni ti akleta non bola el. Ma ita non chick for man piti ti angan piso. Anno wingi zaza, anno meti meti amna. Azuano za chiza afa. Zama tukia no yu kwa chi andraza. No mila makati, no atoku lokomoti. Ela loza zeni koti, nyanyano lokomoti. No mila makati, no atoku lokomoti. Asa wanga no na watiti, no atoku lokomoti. Yeah, yeah, yeah. E ma quinza pilot di un ovesso. Squalo Babylon zamalasso. Deso, deso. J'suis ton king no pilot des avesso. Alla lo kilot la palazzo. Deso, deso. E ma quinza pilot di un ovesso. Squalo Babylon zamalasso. Deso. J'suis ton king no pilote des avesso. Alla lo kilote la palazzo.